9 in punto, la versione di Oscar. Buon venerdì, buon fine settimana. Ci occupiamo oggi di questi 800 milioni che abbiamo appreso nelle difficoltà, o comunque nel confronto in atto in Parlamento all'interno della maggioranza e con il governo, per vedere dove riallocare le poche risorse a disposizione di fronte alla necessità di acchiappare la crisi e di salire in groppa alla ripresa. Si sta parlando della finanziaria. Ecco, in questo quadro gli 800 milioni che erano stati annunciati come il primo carburante per colmare il digital divide e procedere verso la realizzazione per tappe graduale, perché 800 milioni non bastavano, verso le reti di nuova generazione, per consentire di dare maggiore simmetricità e maggiore ampiezza al collegamento internet per milioni di italiani e soprattutto per tante piccole imprese che oggi stanno in aree in cui non c'è fibra e non c'è banda larga. Ecco, questi 800 milioni non ci sono più, perché la priorità è altrove, e quindi il governo, per bocca del vicepresidente del Consiglio Gianni Letta, non ha potuto che dire: vedremo se al momento in cui l'emergenza sarà scomparsa questi 800 milioni saranno riallocati. E discuteremo insieme ai nostri ospiti di questo quadro che si apre. Voi sapete, noi abbiamo parlato più volte, che verso la necessità di colmare il digital divide sono state numerose le iniziative che si sono accumulate nel tempo. Mi limito a ricordarvi che ormai 7 mesi fa il rapporto di Francesco Caio, chiestogli proprio dal governo, che indicava più possibilità per affrontare appunto questa sfida, e negli anni immediatamente di fronte a noi che si gioca la partita per stare nella punta avanzata della banda larga in tutto il mondo. Ci sono paesi come Francia con il rapporto France Numérique, o la Gran Bretagna come Digital Britain, che hanno indicato la loro strada e scommetteranno, nel caso del Regno Unito, scommetteranno direttamente sulla fibra, tentando di colmare quindi il ritardo che hanno accumulato. Da noi, fine della mia introduzione, abbiamo a che fare innanzitutto con il problema dell'ex incumbent pubblico, cioè Telecom Italia. Oggi un'intervista sul Sole 24 Ore per chi vuole approfondire, un nuovo cambio di management in alcune reti importanti, tra cui quello della rete fissa. Insomma, c'è un problema di debito elevato, non preoccupante ma elevato, e che quindi spinge quell'azienda, che è in calo nel mercato interno come tutti gli ex monopolisti, a non investire troppissimo, ecco, sull'adeguamento della sua rete e a estrarre il maggior valore possibile dalla rete in rame, che è quella attuale. E questo è certo un aspetto. L'altro aspetto è che il mercato ha comunque dei fallimenti, cioè ha delle aree d'Italia in cui la domanda, sia per la bassa penetrazione del computer nelle famiglie, sia per l'orografia del paese, ha rivelato aree di fallimento. Lì c'è un problema proprio di, non certo dei 100 mega o dei 50 mega, ma c'è una sfida di portare almeno un paio di mega, che poi diventano, nella simmetricità del loro uso, ancora meno, come sappiamo tutti noi che li usiamo, in quella parte d'Italia dove attualmente non solo non c'è la fibra point to point, casa per casa, ma in cui in realtà siamo a poche centinaia di kilobytes ancora di internet. E vi sono anche aree d'Italia, sia pure molto ristrette, in cui non ce n'è per niente, e allora lì si tratta di coordinare al meglio gli sforzi. Magari lì, ecco, serve soprattutto l'incentivo pubblico. Io ricordo che gli scavi servono, che le risorse servono ai 2/3 per finanziare gli scavi, per fare i collegamenti, non certo perché si tratta di tecnologie molto avanzate. Ecco, iniziamo a parlarne con i nostri ospiti. Iniziamo innanzitutto con la voce del governo, con Paolo Romani, il viceministro allo sviluppo economico con delega alle comunicazioni. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, facciamo qualche riflessione su questa sorpresa. Lei mi pare di capire che non dà, almeno allo stato attuale, sì, ma più avanti non dà per perduta questa somma. Qual è la prospettiva? Ma la somma di cui stiamo parlando, lei ha fatto un'introduzione assolutamente corretta, volevo solamente specificare che le aree a fallimento di mercato, cioè le aree a digital divide, quelle che non hanno i famosi 2 mega, quindi hanno quelle centinaia di kilobit che lei menzionava prima, sono circa il 13% della popolazione, pari quindi a 7.800.000 persone. Questo intervento, che noi vi abbiamo immaginato essere di 1.471, il famoso il cosiddetto piano Romani o Caio Romani o Romani Caio Brunetta, insomma tu dici abbiamo lavorato, alla fine il progetto è sostanzialmente unico, per portare tutto il paese, quindi anche le aree digital divide, a 2 mega minimo, attenzione, minimo. La Finlandia recentemente ha fatto un piano per 1 mega minimo, vuol dire che abitualmente si viaggia in un ambiente di 10, 15, 20. È vero quello che ha detto, che quando troppi utenti si agganciano si supera verso il basso i 2, ma nel piano questi 2 minimo assicurato. Ebbene, questo piano di 1471 è sì composto degli 800 che oggi sembrano mancare, ma è composto anche di tutti gli altri che invece oggi ci sono e su quali già stiamo lavorando. Voi sapete che il Ministero ha un braccio operativo che si chiama Infratel, che sta già lavorando con i 264 milioni più 160 di fondi rurali che ha già in pancia, e stiamo lavorando con le regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Campania, Lazio, Calabria, che deve ancora ratificare, e le altre con le quali stiamo stipulando protocolli che obbligano per certi versi le regioni ad aggiungere risorse complessivamente circa quindi altri 100 milioni, quindi abbiamo già un pacchetto di circa 500-550 milioni sui quali i lavori sono incominciati. Gli 800 che non si ha necessità che arrivino domani mattina, certo ci avrebbe fatto comodo che almeno una prima tranche fosse arrivata oggi o anche domani mattina, ma come diceva ieri il sottosegretario Letta nella conferenza stampa, ieri l'altro che abbiamo fatto insieme, non è la prima degli investimenti, è la prima priorità degli investimenti ordinari una volta che si è usciti dalla crisi, dal tunnel della recessione. Io mi auguro che questa crisi non duri 2 anni che qualche pessimista evoca possa durare, io penso che duri molto molto meno. Quindi se fra qualche mese, uscita dalla crisi, si potranno fare gli investimenti e questa è stata considerata ed è stata giudicata dal governo una priorità assoluta, a mio avviso questi 800 si agganciano ai soldi che già abbiamo in casa e sui quali stavamo già lavorando. Quindi che io faccia comunque pressione fortissima insieme a Brunetta perché questi soldi vengano investiti e ci siano e siano resi disponibili, mi sento tutto sommato non pessimista perché intanto il lavoro è già incominciato. Anche oggi sul Sole, in un pezzo in cui si riportano naturalmente le reazioni di viva preoccupazione di tutte le imprese del settore, come c'era dall'ANI, presieduta da Guido Alberto Guidi e così via, si indica anche la prospettiva, di cui non ho capito se avete parlato con i rappresentanti della filiera dell'impresa privata oppure no, di coinvolgere però anche in questo passo iniziale per colmare il digital divide capitale privato, ma in che misura questo è possibile? Si fa un progetto di finanza che ovviamente aveva bisogno degli 800 milioni, quindi nel momento in cui saranno disponibili noi faremo un project financing che coinvolge anche i privati, ovviamente in primo luogo l'ex incumbent Telecom, perché è ovvio, e lei sa, e questo è un problema che è stato risolto, gli interventi di questo tipo, cioè del primo step in attesa dell'NGN, che sarà l'intervento successivo, vengono fatti sulla rete Telecom. Dopodiché ci sarà il problema di chi farà il lavoro e di chi rimarrà proprietario dei lavori che verranno fatti e dei pezzi di fibra che verranno installati, ma noi ci agganciamo ai 500.000 chilometri di network Telecom che sono installati nel paese. Non penso che un paese anche come il nostro, importante per certi versi ricco come il nostro rispetto ad altri del mondo, possa permettersi di avere più di un'infrastruttura di questo tipo, anche se qualche privato ha detto che vorrebbe comunque investire al di là della rete Telecom. Quindi questo sarà il meccanismo. Le aggiungo una cosa, il piano Caio a mio avviso ha risolto un problema di fondo, ci siamo fermati per anni sul discorso scorporo sì, scorporo no, non è questo il problema. Per l'NGN si farà una società della rete dove potranno partecipare tutti coloro che oggi insieme allo Stato partecipano agli investimenti di questo tipo, ma per adesso per chiudere il digital divide dobbiamo chiuderlo aggiungendo fibra per raggiungere tutti i paesi, tutti i posti che oggi sono giudicati a fallimento di mercato. Piccola notazione, le aree a fallimento di mercato sono oggi giudicate così perché arriva pochissima banda larga e pochissimi quindi l'utilizzano. Io mi auguro che nel momento in cui si potesse fare un'infrastruttura ed è diffusa sul territorio nazionale, non c'è differenza fra nord e sud, e sarà diffusa ovunque, cittadini e aziende, tutti impareranno a usarla e quindi anche quelle aree non saranno più a fallimento di mercato. Le faccio un'ultima domanda perché poi non so quanto ancora si potrà trattenere con noi. Parliamo anche in prospettiva dell'ipotesi più impegnativa, cioè di quella più alta, quella che servirebbe imboccare con forza se si trovassero i partner e le risorse necessarie per stare nella punta più avanzata della digitalizzazione mondiale. Leggevo che c'è un gestore a Hong Kong che lanciando una nuova iniziativa pochi giorni fa sul mercato di Hong Kong diceva che c'è più del 20% dei cittadini di Hong Kong che soffrono perché hanno solo 10 mega come cosa, e mi veniva un po' da ridere. Certo, Hong Kong non è l'Italia nella sua complessità, ma parliamo un secondo di quello. Era parso di capire nel dibattito successivo alla presentazione e all'illustrazione del rapporto Caio che esista una prospettiva, se ho capito bene, di finanziamento anche dei 7, 8, diciamo fino a 10 miliardi di euro, quindi cifra molto rilevante, necessaria per arrivare alla digitalizzazione nel senso di 50, 100 mega in termini di non troppi anni alla quasi totalità del mercato, o comunque a una percentuale superiore al 70-80%, e questa prospettiva di finanziamento, da quello che avevo capito, coinvolgeva tutti i soggetti privati del settore, tanto l'incumbent con la sua rete di rame eccetera eccetera, quanto il suo concorrente con la maggior fibra più avanzata in Europa, che è Fastweb con il cavo, mettendo insieme pezzi di revenue, di ricavi realizzati ciascuno con la propria rete, e finanziando così il più di questo sforzo. Se ho capito bene, anche se naturalmente i protagonisti di questo dibattito da parte delle imprese non l'hanno mai formalizzata esplicitamente questa proposta, ma se ho capito bene questa proposta esiste davvero, Romani, che cos'è che davvero impedisce di realizzarla? Un problema societario di Telecom privato, oppure il fatto che abbiamo troppo parlato dello scorporo? La posta, a mio avviso, la domanda centrale. Telecom è un'azienda che oggi, a nostro avviso, non sta investendo sulla propria rete in maniera tale che abbia un upgrade, come le intendiamo noi, in un progetto industriale di diffusione di banda larga. Telecom ha poi i problemi che voi ben sapete di debito alto, che non sono dipendenti dall'attuale gestione industriale, ma sono figli di tutto quello che sapete che è accaduto nel passato, quindi non sono figli di una cattiva gestione industriale ma di una pessima gestione finanziaria per tutti le OPA che sono state fatte. Non ha Telecom oggi probabilmente le risorse per farcela da sola e quindi ha bisogno di risorse altre. Ovviamente gli altri sono concorrenti che parte lavorano in fibra tipo Fastweb, che parte invece insistono, vedi Vodafone o vedi anche parzialmente Wind, insistendo sul fatto che non tutta la rete di banda larga debba essere fatta in fibra. Vodafone ha una sua specificità per una rete wireless, tutti guardano con estremo interesse alla LTE, cioè la Long Term Evolution, dicendo guardate, attenzione, non riempite il paese di fibra perché può darsi che ci possa essere un sistema molto meno costoso e altrettanto valido tecnicamente, eccetera, eccetera, eccetera. Il dibattito avviene fra Ministero e queste aziende con le quali abbiamo parlato e stiamo parlando. Faccio un esempio che però si inserisce in questo contesto. Elsa Wiris, proprietario di Wind, insieme ai suoi manager Luigi Copitosi in primis, ci hanno detto guardate che noi intendiamo investire in Italia, è un mercato che ci interessa investire più di 1 miliardo di euro. Bene, noi abbiamo cercato di parlare con loro e di convincerli che questo investimento, che ovviamente è specifico dell'azienda che loro rappresentano, debba essere inteso o possa essere inteso all'interno di un progetto industriale unico. Questo è il tentativo, noi potremmo e possiamo essere cabina di regia. Cabina di regia poi è importante perché anche negli enti locali c'è grande sensibilità, per certi versi ci sono anche più risorse negli enti locali e non parlo solo delle regioni, province, comuni, ognuno vuole la sua banda larga e se noi non dovessimo avere una capacità di gestione, di regia complessiva di questo progetto rischieremo di avere tantissime piccole bande larghe ma non un sistema di banda larga infrastrutturata su tutto il paese con l'armonia e con la simmetria che anche lei citava prima. Questo è il progetto. Lei mi dice perché non lo state facendo? Innanzitutto noi ci dobbiamo presentare al tavolo con le risorse e al momento stanno mancando, ma stia pur tranquillo e sicuro, e l'ho detto anche a tutti coloro che saranno i nostri interlocutori, che nel momento in cui ci sarà sia il primo step ma anche il secondo, che non saranno probabilmente soldi dello Stato nel senso tradizionale del termine, ma saranno risorse reperite a mio avviso sul mercato finanziario, sulla Cassa Depositi e Prestiti, della BEI, di qualcun altro, non lo so. Fra 2 anni immagino che non saranno i soldi il problema, saranno gli investimenti e le strategie industriali il problema sulla bontà delle quali poi si dovrà decidere se investire o meno. A quel momento si potrà fare un ragionamento complessivo, io la chiamo società della rete o delle reti, laddove lo Stato farà la sua parte e tutti coloro che oggi sono protagonisti e probabilmente i 4 o anche altri, tipo Poste, tipo Ferrovie, potranno fare la loro piccola o grande parte, perché il sistema industriale italiano possa godere della grande autostrada informatica di cui oggi abbiamo bisogno. Io devo dirle, e concludo, non sento che siamo così drammaticamente in ritardo, perché comunque c'è anche un problema di alfabetizzazione complessiva del paese, che non dipende dal fatto che la banda larga non sia così diffusa. No, no, è vero che negli ultimi anni la percentuale di famiglie che hanno un PC in Italia ha teso quasi a stabilizzarsi invece che a crescere, cioè 40 esatto. qualcosa per cento. Esattamente. Dopodiché anche il progetto di Brunetta della digitalizzazione della pubblica amministrazione, addirittura pensavamo di fare degli switch off reali come stiamo facendo per la TV digitale. Guardi, è un grande progetto di digitalizzazione complessiva. Io sarò un ottimista per vocazione personale, ma ritengo che al 2013, quando si concluderà questa legislatura, a mio avviso saremo molto avanti nell'operatività di un progetto complessivo di digitalizzazione. Dipende anche dall'intelligenza del nostro paese, dipende anche dagli italiani. Non c'è solo Facebook su internet, ci sono mille occasioni di sviluppo economico, e questo è compito un pochino anche di tutti i ministeri, anche un pochino diciamo di tutti i media, vostro, il dibattito che fate oggi, la capacità di tutti gli italiani di comprendere come quella infrastruttura possa essere l'infrastruttura del domani. Grazie a Paolo Romani, e grazie anche per la diplomazia, che traduco però anche con un po' di chiarezza, e me ne prendo io la responsabilità, non la do certo al vice ministro Paolo Romani. Effettivamente tutto ciò che è avvenuto negli anni nella gestione finanziaria di Telecom Italia oggi rappresenta un problema perché la compressione della possibilità delle risorse finanziarie da destinare allo sviluppo della rete, all'adeguamento della centralina, all'apertura e alla condivisione della rete rispetto ai concorrenti, perché ovviamente se la prospettiva è quella di tenere il più possibile botta in una situazione di mercato interno in compressione, tu tendi a estrarre il maggior valore possibile dalla rete che hai già iperammortata nel tempo, questa è la realtà, nei decenni con cui l'hai sfruttata da monopolista, e tendi per questo a condividerla ancora meno, tantomeno a fare sviluppi tecnologici, non quelli necessari che Telecom Italia fa, ma quelli ancora più necessari in vista di questo sviluppo, di uno sviluppo condiviso. Ecco, questo problema è un problema sul quale ci interrogheremo con gli altri ospiti nel proseguo della nostra trasmissione. Intanto già alcuni di voi hanno telefonato, iniziamo con Gian Antonio dalla provincia di Pistoia. Prego Gian Antonio. Sì, buongiorno. No, io abito, pronto, mi sente? Dica. No, io abito in un paesino a 5 km dal centro di Pistoia, no? Un paesino in collina che però è abbastanza collegato con il centro della città. Tra l'altro noi siamo da svariati anni, abbiamo fatto anche richieste come abitanti del luogo per avere un discorso di banda larga, cosa che la Telecom non ci ha mai risposto, ci ha sempre detto. Perché il vostro collegamento attualmente è a 56K. Insomma. Ora c'è un progetto della regione che entro febbraio ci dovrebbe mettere un collegamento a banda larga a 2 mega, però nasce già vecchio, insomma. Sì. No? Lei ricade esattamente in una di quelle zone che aspetterà ancora dopo che gli 800 milioni mancano. Ma siccome io se me ne occupavo, perché ho fatto una delle prime reti wifi in Italia nel 2001 in un istituto di ipergeometri, no, facevo l'insegnante fino all'anno scorso, pensavo. E si mi occupava anche di queste cose, di reti, di web, eccetera. Cioè di queste cose io non mi posso più occupare perché praticamente sono tagliato fuori. Esattamente. Praticamente al 56K. Non c'è dubbio. E questa situazione è condivisa naturalmente non solo da lei, utente individuale, per la sua attività, ma naturalmente per tutte le piccole e medie imprese che stanno da quelle parti. E la realtà vera è che noi tendiamo a trascurare che questa infrastruttura ha un impatto sulla produttività generale del paese, che potrebbe essere uno dei più potenti acceleratori per recuperare il problema della minor produttività, che proprio il numero molto più elevato di piccole imprese nel panorama produttivo italiano è rispetto a tutti gli altri paesi OCSE. Questo è un motivo per procedere più rapidamente degli altri, non meno rapidamente. Diego dalla provincia di Pavia, prego Diego. Buongiorno, volevo portare la nostra esperienza per quanto riguarda la copertura di SL. In realtà io credo che lo sblocco di queste risorse statali sia un problema relativo. Nella nostra zona abbiamo preso contatti con un operatore privato, seppur di livello abbastanza alto, nel senso che copre tutto il nord Italia, che senza richiedere finanziamenti a comuni, regioni, comunità montane, eccetera, eccetera, ha comunque portato banda larga nella maggior parte dei comuni non coperti dalla rete Telecom Italia. Quindi se ha funzionato nella nostra zona, potrebbe funzionare in tantissime altre zone. È chiaro che questi operatori privati richiedono un minimo di interesse da parte della zona da coprire, per poter rientrare poi dell'investimento, che comunque con le tecnologie attuali risulta non essere così, così importante in termini di costi. Grazie Diego. Di questa ipotesi, cioè di accelerare soprattutto con le iniziative private, si è parlato proprio poche settimane fa a Capri al convegno, che è una delle più importanti occasioni organizzate da Between con François de Brabant e praticamente tutti gli interlocutori della filiera. Ancora due ascoltatori, cominciamo con Massimiliano da Verona. Prego Massimiliano. Buongiorno a tutti. Io volevo raccontare la mia piccola disavventura. Abito in un piccolo paesino della Bassa Veronese, dove con due chiavette di connessione io navigo fra i 5 e i 10 kilobyte. Sono contento quando arrivo a 25-30. Ho fatto la raccolta firme, l'ho data alla Telecom, non gliene importa niente. La mia domanda è: dove pensiamo di andare con questi servizi? Quando per inviare un'email ci si impiega un'ora, la nostra economia non è al tempo del cavallo e del carretto, è a livello naturalmente altamente tecnologico. Come possiamo competere? Grazie. Massimiliano. Carlo da Bergamo. Carlo, prego. Buongiorno signor Giannino, è un inchino la sua materia grigia perché la stimo moltissimo. Non si figuri. Ecco, senta, io volevo dire da utilizzatore di internet da 11 anni che a me è successo di avere un filo di rame della Telecom che mi dava fino a 3 anni fa 2 mega. Dopodiché vedevo che non riuscivo più a connettere e mi hanno abbassato a 600 per decadimento del doppino di rame. Allora io mi domando, ma se Telecom non riesce a gestire le linee, perché deve essere monopolista? Io adesso ho una connessione internet in fibra ottica e abbiamo dovuto escogitare il sistema di andare wifi dalla centrale trasmittente a casa mia, quindi devo utilizzare l'etere, proprio perché Telecom blocca l'installazione a casa. Oltre a questo, io ho la moglie che è rumena e ha una velocità di connessione fissa che è l'entry level dell'RDS.ro della società a Costanza in Romania a 20 mega. Sua sorella che ha necessità di lavoro viaggia a 50. Se lei va su un sito che si chiama speedtest.net e guarda la statistica mondiale delle connessioni internet, lei trova l'Italia al 71esimo posto insieme a Togo. Ecco, e la Romania al quinto e al sesto posto la Bulgaria e la Lituania al secondo posto, prima mi sembra che sia la Corea o il Giappone. Cioè, io dico, si può andare avanti così nel 2009? Io lo chiedo a tutti quelli che sono presenti. E una cosa, sono contento che una delle persone che ho votato di destra, della destra, centrodestra, abbia detto che è solo temporaneo lo stop, perché effettivamente c'è un'urgenza impellente. Naturalmente lei sa che niente di più permanente di ciò che viene annunciato come temporaneo nel nostro paese spesso. Speriamo che non sia in questa occasione. L'ultimo ascoltatore, poi i nostri ospiti. Francesco dalla provincia di Pavia. Buongiorno, grazie. Andiamo al punto, dica. Allora, il punto è, per fortuna esistono queste trasmissioni in cui si può insomma risolvere un problema che è effettivamente fondamentale. Ho due punti da esporre. Il primo, scelta tecnologica di questo piano, secondo me non è molto attuale, dato che se ne parla anni e anni, ma cablare tutta l'Italia in fibra non ha più senso. Vorrei sapere che fine ha fatto Waymax, è comunque nell'ipotesi molto più economiche che potrebbero portare magari gli stessi risultati con maggior costo. Il secondo punto, che forse è una cosa ancora più originale che non ho mai sentito, è parlare delle tariffazioni della banda larga. In questo momento in Italia comprare 640k o comprare 10 mega costa uguale, perché secondo me c'è un accordo, diciamo così, non direi di cartello, ma questo sistema disincentiva ovviamente qualsiasi investimento produttivo, perché il progetto anti digital travail del 640k ha di fatto bloccato l'upgrade tecnologico della fibra. Io mi chiedo come mai si possa offrire un servizio senza investimenti allo stesso prezzo di un servizio con investimenti. Dunque, lei sollevando il problema dei prezzi, cioè dei prezzi e anche delle tariffe, tocca uno dei punti, dei tantissimi punti che ancora non abbiamo toccato e che adesso consegniamo ai nostri due ospiti, perché tra i tanti punti stiamo parlando di un tipo di servizio che ovviamente ha a che fare moltissimo con la regolazione. L'unbundling, l'apertura, la condivisione delle reti, degli ultimi tratti di reti, ha a che vedere con che tipo di tecnologia si usa, perché se si usa una tecnologia di rete FTTC il grado di condivisione possibile è molto basso, se si va sul FTTH, cioè sul quanto più si arriva alla fibra punto punto, tanto più la condivisione dal punto di vista anche tecnologico e delle apparecchiature di smistamento è meno problematica. Poi c'è tutta una questione che riguarda appunto le tariffe. Le tariffe sono state per tantissimi anni, troppi anni nel nostro paese del regolatore, volte a premiare soprattutto che cosa? A premiare soprattutto quella componente del mercato che da una parte era quella più in sviluppo, quella della telefonia mobile, e che era quella che dava anche più revenue agli operatori, e adesso si tratta invece di fare il contrario, quindi lì si tratta di riorientare la scelta delle tariffe di terminazione verso un sistema che è sempre più integrato in tutte le sue componenti, fisso, fisso avanzato, mobile, etere per integrare laddove non si può fare la banda larga localmente. Naturalmente etere significa, lo ricordo a tutti, che poi quanto più ci si sta più lo si satura, a differenza del cavo. Ok, d'ora in poi sto zitto perché parlano Stefano Quintarelli, che abbiamo con noi, imprenditore, uno dei pionieri dell'introduzione commerciale di internet in Italia, del primo internet service provider 15 anni fa. Buongiorno Quintarelli. Non c'è Quintarelli? Buongiorno a lei, a tutti gli ascoltatori. Lo so, abbiamo tenuto troppo tempo. È Mario Pepe, consulente della Aegon Zender International. Buongiorno Pepe. Buongiorno. Allora Quintarelli, andiamo su qualcuno di questi punti che non abbiamo toccato fino a questo momento, cioè dal suo punto di vista, giudizio tecnico su quanto la condivisione e i piedi puntati alla condivisione da parte di Telecom Italia tecnologica rappresenti un freno, e quanto invece anche l'autorità regolatoria non ha fino a questo momento adeguato la priorità a cui volgere le tariffe per aiutare gli investimenti di rete. Sì, certamente, bisogna anche considerare che noi ci muoviamo in un quadro di regole che sono stabilite a livello europeo, e a livello europeo vuol dire che ci devono essere delle regole che più o meno vanno bene per tutti, ma le situazioni, come ricordava l'ascoltatore, sono molto varie. Se si guarda i nuovi paesi appena entrati nell'Unione Europea, loro hanno beneficiato di una mancanza di infrastruttura precedente, per cui la nuova infrastruttura è già stata potente, è stata realizzata potente, e quindi hanno bisogno di regole che sono diverse rispetto a noi, che avevamo un'infrastruttura precedente e che naturalmente quindi abbiamo la necessità di aggiornare. Quindi direi che non ci sono grandi responsabilità, a mio avviso, da parte del regolatore sul tema dell'incentivo alla realizzazione dell'infrastruttura. Il problema è la struttura del mercato, che per come è fatto e rispetto a dove veniamo e alla nostra storia, limita l'incentivo alla posa di nuove infrastrutture di rete che necessariamente devono essere condivise. Cioè la rete in Italia ce ne può essere una sola per ragioni economiche, quindi bisogna trovare dei meccanismi per farlo condividere tra tutti gli operatori. Questa non è la situazione ovunque in Europa, il quadro regolamentare ovviamente qualche problemino lo pone. Una domanda per Pepe: dovessimo indicare, il rapporto Caio si sforzava di farlo, ma a suo giudizio dovessimo indicare qual è l'esperienza di mix proprietario, regolatorio e di condivisione di risorse finanziarie, non solo tecnologiche, volto dal suo punto di vista a realizzare nel più breve tempo possibile un'offerta di banda larga vera, non quella adesso solo del digital divide minimo per chi non ce l'ha, lei quale modello tra i diversi paesi europei indicherebbe come più vicino, più utile per l'Italia di oggi? Parlare di modelli che possono essere importabili in Italia, secondo me c'è bisogno di parlare di quello che è realizzabile qui in Italia. Quindi parlare del modello di Open Reach in Inghilterra è molto semplice. Non so se la situazione attuale in Italia ce lo permetterebbe, visto che siamo in una condizione un po' particolare di monopolio e che dura da decenni. Detto questo, io mi permetto di portare alla discussione un altro angolo, se lei certo vuole. dica. Allora, noi in Aegon Zender ci occupiamo, per quelli che non ci conoscono, di ricerca e selezione del personale, di candidati, diciamo, che sono nel top management di grandi aziende italiane, multinazionali, e che lavorano per aziende italiane o per multinazionali, quelli che volgarmente si chiamano cacciatori di teste. I cacciatori di teste, esatto. Allora, quello che noi, quindi noi siamo per natura del nostro lavoro a valle di tutto ciò che accade nel sistema paese, perché alla fine ci troviamo nella stanza dove il cliente, sia esso un fondo di private equity o una grande multinazionale che ha presenza in tutta Europa, incluso Italia, si siede con noi e decide: bene, chi assumiamo, quali di questi manager noi assumiamo, siano essi italiani, francesi, spagnoli. E molto spesso c'è una pesatura paese, Mi spiego. Quando i fondi di private equity o le multinazionali decidono di assumere una persona o anche un team di persone, e le opzioni sono Spagna, Francia, Inghilterra, Italia, oltre a guardare le skill manageriali del singolo individuo che incontrano, cercano anche di capire qual è la provenienza di quella persona. Sì, certo. Mi spiego. Loro hanno, e io lo vedo perché poi questo è applicabile nella realtà, nella quotidianità delle cose che facciamo, c'è un moltiplicatore di sistema paese, per cui vengono privilegiati manager che vengono da paesi che hanno un moltiplicatore maggiore di uno e quindi aumenta il valore oggettivo della persona. E il sistema paese è pesato in diversi ambiti, uno è quello delle infrastrutture, quindi qual è il sistema di infrastrutture, gasdotti, ferroviario, certamente, autostradale e infrastrutturale della rete. Quindi io non commento su quanti soldi sono necessari per fare gli investimenti e portare in Italia per chiudere il digital divide. Io dico solamente che ad oggi il moltiplicatore del sistema paese Italia non è molto alto. Questo mi pare la conseguenza inevitabile di questo tipo di scelte che anticipano il presente e il passato rispetto al futuro da realizzare. Ci stiamo occupando di digital divide, di come colmare almeno quel minimo di banda che è negata ancora a più del 10% degli italiani e poi di arrivare a una banda ampia, vera per tutti e che sia tale da colmare il gap di produttività accumulato. Dal blog di Stefano Quintarelli traggo una cosa numerica che mi ha molto colpito perché è molto interessante e che però si può leggere in due modi, e che ha paragonato la quantità di traffico e la quantità di traffico pagato di Skype nel mondo e di Telecom Italia sulla sua rete fissa in Italia, elaborando dei dati da chi li osserva professionalmente. Quintarelli fa notare che ogni ora Skype fa 100.000 ore di chiamate da Skype a Skype, cioè sulla rete, 33.000 ore di videochiamate e 12.000 ore di chiamate in breakout verso la rete fissa mobile. E si pone la domanda: ma sono tante o sono poche queste 100.000 ore di chiamate, 33.000 di videochiamate e 12.000 ore di chiamate verso la rete fissa mobile in breakout? Facendo un paragone con le telefonate che fa Telecom sulla sua rete fissa, ogni ora Telecom Italia fa 275.000 ore di telefonate sulla rete fissa, che sono da paragonare non alle 100.000 di chiamate da Skype a Skype ovviamente, ma alle 12.000 ore di chiamate che si fa in breakout su Skype verso la rete fissa mobile, perché sono quelle che si fa pagare Skype. Quindi, conclusione, Skype fa circa la metà del traffico nel mondo della rete fissa di Telecom Italia in Italia, ma se ne fa pagare solo un 23esimo, e questo si può leggere in due modi. Primo, come si vede, internet BOIP è il protocollo del futuro e che oltretutto è aperto a tutti. Secondo, certo, Skype è poco efficiente se si fa pagare un 23esimo di Telecom Italia, e in questo forse c'è anche una piccola sintesi del problema. Quintarelli, in cosa ho sbagliato? Pronto? Non ha sbagliato in nulla. Io mi scuso per la latenza che abbiamo, ci sono circa 2 secondi di ritardo tra la sua domanda e il momento in cui sì, sembra via satellite. La latenza in una rete determina la qualità delle applicazioni che si possono fare, in questo caso sarà a bassa interattività. Certamente gli numeri che lei ricordava dimostrano che internet è un massiccio strumento di trasferimento di valore ai sistemi precedenti agli utenti. Cioè, mentre prima ci guadagnavano moltissimo, molto gli operatori, adesso invece questo valore viene trasferito all'utente. Che cosa resta all'operatore? La buona notizia è che il costo marginale di una transazione elettronica è zero. La cattiva notizia è che il costo marginale di una transazione elettronica è zero e che quindi spesso non conviene neanche fatturarla. Per cui lo scenario che si prefigura in futuro è quello di un accesso flat, dove si paga solamente l'accesso e dove non c'è più una variabilità legata ai servizi. L'unica variabilità legata ai servizi può essere data dall'esistenza di una scarsità, come ad esempio veniva ricordato prima sulla rete mobile per lo spettro, oppure da questioni regolamentari, perché ad esempio c'è una tassa per ogni transazione. Ecco, diversamente si va solo sull'accesso. Questa è la grande discontinuità che hanno davanti gli operatori, che quindi si trovano limitati nella loro possibilità di fare ricavi e quindi si trovano limitatissimi nella possibilità di avere margini per fare i famosi investimenti che sono necessari. La tecnologia in parte aiuta. Prima qualche ascoltatore citava del fatto che un operatore privato ha coperto delle zone. Spesso le persone guardano solo alla DSL. La DSL è il modo più semplice e immediato per vedere se c'è una copertura di banda larga, ma non è l'unico. Io personalmente a casa mia, e sono un pesante utente, ve lo posso assicurare, uso un collegamento Iperlan. Iperlan è una tecnologia di cui non si sente mai parlare, ma che di fatto copre migliaia di comuni che in teoria sono in digital divide. Per cui, se posso dare un consiglio agli ascoltatori, prima di fare petizioni, a me capita spesso sul blog di persone che mi scrivono e mi dicono: stiamo facendo una petizione, stiamo coinvolgendo il sindaco, riesci ad aiutarci in qualche modo, eccetera. E io gli dico: guarda che nella tua zona il digital divide non c'è, perché ci sono delle infrastrutture alternative wireless che danno delle prestazioni significative. Queste alternative possono scalare su milioni e milioni di utenti, sulla totalità della popolazione? No, sono sicuramente un cialdino rispetto alla dimensione del problema, ma sfuggono a quelli che sono i dati ufficiali di copertura, perché purtroppo non c'è un monitoraggio completo sulle coperture alternative fatte con questo tipo di tecnologie. Si arriva un po' al WiMAX, ma sull'Iperlan non c'è niente. Achille dalla provincia di Massa Carrara, prego. Salve, buongiorno. Senta, quello che ha detto appena adesso è giustissimo. Infatti io sono presidente di una società che si chiama Wi-Fi Communication e opera in Iperlan proprio, nella provincia di Massa Carrara. E ho sofferto finora proprio di questa mancanza di monitoraggio. E per legarmi al discorso che era stato fatto all'inizio della trasmissione di questo intervento che ha bloccato, a me piacerebbe sapere che tipo di interventi e come vengono coordinati nel paese, perché io mi sto trovando con la mia società ad avere la regione Toscana che ha promosso un bando tramite l'Europa per una cifra di 2 milioni di euro per andare a fare la copertura nelle aree col digital divide, tra cui è stata individuata la mia provincia, dove io però sono attivo con quasi 1000 utenze. E io sto facendo obiezioni, contestazioni da quasi 2 anni, ma nessuno mi risponde e non c'è nessun tipo di screening, come è stato detto appunto poco fa, non c'è nessuna indagine che possa controbattere a questa cosa. Noi ci troviamo in una situazione paradossale nel quale diamo un servizio, portiamo la banda oltre 2 mega al singolo cliente in zone praticamente montuose, e la regione ha promosso 2 milioni di euro a una società privata per venirci a fare concorrenza e di fatto a distruggere il mercato. Grazie anche ad Achille, e io ringrazio probabilmente Andrea da Roma e Giuseppe della provincia di Salerno che non riusciremo a chiamare. Faccio un'ultima domanda a Quintarelli: quanto nel ritardo, nel blocco Telecom Italia, al di là del passato e nelle difficoltà di far convergere nel modello tecnologico ma anche di condivisione finanziaria delle reti NGN da realizzare, conta il fatto che si è sbagliato a concepire il modello di integrazione dei servizi, cioè infrastruttura e servizi insieme? Per molti anni i grandi operatori hanno tentato di fare questo, era tutto sbagliato, perché chi offre servizi deve continuare a fare solo quello e chi fa il carrier deve fare specificamente quello. Più che altro chi fa il carrier poi nella banda larga può profilare meglio i clienti e ha questo pacchetto che è pressoché di valore assoluto in una società dei consumi diversificata come la nostra, in cui può profilare molto il cliente. Quanto ha contato questo errore? Glielo devo chiedere in pochi secondi. Continueremo a pagarlo ancora? Tantissimo, tantissimo, e continueremo a pagarlo. Questo è un errore che nasce nei primi anni 90 con la liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni. Errore fatto assolutamente in buona fede, perché il modello di mercato di riferimento era quello della telefonia. Internet era una cosa che in sostanza commercialmente non c'era ancora in quegli anni. La cosa grave è stata perdurare nell'errore e continuare a sostenere la competizione a livello di infrastruttura, che porta alla duplicazione di infrastrutture nelle zone ricche e l'assenza nelle zone meno ricche, arrivando a una situazione insostenibile, e questo è avvenuto anche fino in tempi relativamente recenti. Adesso finalmente gli operatori, e in Italia per primi, perché la situazione finanziaria che veniva ricordata prima è una cosa che è un peso comunque per il sistema, in Italia per primi sta parlando di mettersi insieme per fare le nuove reti. Voglio solo aggiungere un'ultimissima cosa. Questo ritardo sugli 800 milioni, che come ha spiegato prima l'onorevole Romani è solo un ritardo, e sappiamo tutti la sensibilità che ha l'onorevole Romani per questa cosa, speriamo che sia colto suggerimento al Ministero, all'autorità, di mappatura effettiva del reale digital divide, andando a considerare tutte le alternative e non guardando solo se c'è la DSL o meno. Grazie. Perché non si vive di solo DSL. Certamente. Grazie a Stefano Quintarelli, grazie a Mario Pepe, grazie a Paolo Romano, grazie a voi tutti, grazie anche a Pietro Bescapè in regia e a Gloria Guerrera in redazione. L'appuntamento è a lunedì mattina. Radio 24. La passione si sente.